in primo piano. Buongiorno e buona Pasqua da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei giornali della domenica. Domani i giornali non saranno in edicola per questa strana regola che abbiamo già notato in altre occasioni, come a Ferragosto. Insomma, il giorno di Pasqua è uno dei giorni in cui i giornalisti dei quotidiani non lavorano, ma i nostri colleghi della radio sì, quindi oggi e naturalmente domani avrete le notizie su Radio 24 e anche sul sito del Sole 24 Ore. Ma cominciamo dal Corriere della Sera, che ha il titolo a centropagina riferito al interrogatorio fiume di Francesco Simone, che è il manager della CPL Concordia, con la cooperativa rossa coinvolta nello scandalo della corruzione per il quale è stato indagato il sindaco di Ischia per la metanizzazione dell'intera isola. Il titolo è "Così corrompevo i politici", è un virgolettato, e poi ci sono tutti gli approfondimenti a pagina 2 e 3 di Fulvio Buffi e Fiorenza Sarzanini, perché appunto Francesco Simone ha cominciato a raccontare come esattamente avveniva il pagamento delle tangenti e la corruzione dei politici di tutti i colori. C'è poi una fotonotizia molto bella, trovate la notizia anche su altri giornali, non con questa enfasi. Paolo Di Stefano ci racconta come si stia diffondendo in rete, forse addirittura diventerà una piccola web series, la storia di un liceale che racconta la sindrome di Down del fratello. Il liceale a 18 anni si chiama Giacomo, il fratello si chiama Giovanni a 12 anni, e appunto il fratello più grande racconta al fratello più piccolo che cosa significa avere un fratello con la sindrome di Down: dolori ma anche tantissime gioie. Vi presento Giovanni, mio fratello. E poi c'è un'altra foto, in realtà la foto qui è molto vecchia, del 2007, suppongo che sia l'unica disponibile perché anche sugli altri giornali c'è solo questa, è la foto di quella che viene definita la super bomba Big Blue, è un nuovo tipo di bomba di cui dispongono gli americani. La notizia è stata fatta trapelare proprio nei giorni in cui si delinea questo storico accordo con l'Iran, e questa bomba sarebbe in grado di colpire molto miratamente qualsiasi tipo di bersaglio. Scrivono, trovate gli approfondimenti a pagina 16, la notizia appunto, la superbomba degli americani per far rispettare i patti all'Iran. La Repubblica, anche in questo caso addirittura è proprio il titolo che campeggia proprio subito sotto la testata, confessa al manager della Coop Rossa: così pagavamo i politici. Anche in questo caso l'esperta di questioni giudiziarie, una delle esperte di questioni giudiziarie della Repubblica, Liana Milella, racconta tutto quello che sta emergendo dagli interrogatori, e poi anche approfondimenti di Dario Del Porto e Concita Sannino, pagine 2 e 3, trovate veramente tutto. Questo primo interrogatorio è durato 5 ore e ci sono state una serie di ammissioni, anche chiarimenti, ma naturalmente non sarà l'ultimo interrogatorio per capire come funzionava la corruzione a Ischia. La fotonotizia in questo caso di Repubblica è invece dedicata a uno dei tristissimi striscioni comparsi ieri allo Stadio Olimpico a Roma, questi striscioni contro la madre del tifoso ucciso, del tifoso del Napoli ucciso. Vergogna ultra, questo è il titolo dell'articolo, striscioni contro la madre di Ciro. Lo striscione inquadrato dice che cosa triste, lucri sul funerale con libri e interviste. La madre di Ciro, infatti, che tra l'altro fin dall'inizio, fin dalla morte del figlio, aveva detto io vorrei giustizia, certo, ma comunque non voglio fomentare polemiche, in realtà sta appunto concedendo delle interviste e pubblicherà un libro, ma tutto sempre nelle sue intenzioni per cercare di combattere la piaga del tifo violento. E però quelli che Gianni Mura nel suo commento definisce gli infami hanno reagito così all'impegno di questa madre che ha perso un figlio. Naturalmente su tutte le prime pagine dei giornali ci sono numerosi approfondimenti su quello che è successo in Kenya, la strage di cristiani, 147, forse anche di più, ragazzi uccisi in una scuola, e tutto quello che poi ne è seguito, cioè i proclami dell'ISIS, i proclami di Al-Zawahiri, l'erede di Bin Laden alla guida di Al-Qaeda, e tutte le analisi per cercare di capire che cosa sta succedendo sullo scacchiere geopolitico. Ma veniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, che in questo caso ha un titolo economico, perché sono usciti i dati del CRESME, questo istituto di ricerca, ed emerge che i bonus per i lavori in casa sono stata una delle misure economiche più utili, più efficaci degli ultimi mesi. Il titolo, appunto, Lavori in casa dai bonus, spinta per 28,5 miliardi. Ci sono, gli investimenti nel 2014 grazie a questi bonus sono saliti dell'1,8%, anche se c'è stata una frenata nel secondo semestre. E in questo caso Giorgio Santilli definisce questa misura, che potrebbe anche essere appunto di buon, può essere un buon esempio per altre che verranno, quella una misura di fisco amico. Vi segnalo, a proposito di fisco, sapete che settimana prossima verrà presentato il decreto di programmazione economica per capire appunto come trovare i soldi per le spese pubbliche. Si sta cercando di scongiurare l'aumento dell'IVA o l'introduzione di nuove accise, e allora Dino Pesole cerca di spiegarci che è una manovra che punta a 20 miliardi e bisognerà per esempio tagliare le agevolazioni per 1,5 miliardi, e in questo DEF spending review anche sulle partecipate, la famosa spending review sulle partecipate più volte annunciata e forse mai davvero introdotta. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche un commento di Luca Ricolfi, che sapete da poco più di un mese scrive per il Sole 24 Ore: lavoro e conti pubblici, le chiacchiere stanno a zero. È un'interessantissima analisi sui dati che sono usciti questa settimana sull'occupazione dell'Istat. Luca Ricolfi cerca di spiegarceli spiegandone appunto luci e ombre. A proposito di quello che vi dicevo dell'analisi della recrudescenza del terrorismo in Kenya con le incursioni degli Shabab dalla Somalia, il commento di Alberto Negri: ora il cristianesimo rischia di scomparire nei luoghi dove è nato. Trovate, inizia in prima pagina, poi lo trovate a pagina 6. Ultima segnalazione dalla prima pagina, poi trovate tutto a pagina 16, la lettera al risparmiatore, come di consueto ogni domenica, di Vittorio Carlini, nostro collega di finanza che ogni settimana si dedica a un titolo quotato in particolare. Questa settimana è la Safilo, il secondo produttore italiano di occhiali dopo il leader mondiale che è Luxottica. Safilo punta a raddoppiare il MOL, la scommessa sui marchi propri, perché sapete che tutte queste grandi aziende di occhiali producono in licenza per i grandi big della moda, però hanno anche dei marchi propri dove i margini ovviamente sono molto maggiori. La prima pagina della Stampa è una divisa un po' in due: da una parte Pasqua di paura per i cristiani di mezzo mondo, e vengono riprese tutte le minacce lanciate ieri dal Kenya e appunto dagli Al-Shabaab, questi terroristi del Somali. E però la fotonotizia è una foto di Papa Francesco che ieri ha incontrato dei clochard. Ieri tra l'altro Papa ha compiuto 78 anni. Andrea Tornielli ci racconta un giorno nella chiesa dei poveri di Francesco. A proposito di Papa Francesco, naturalmente l'Avvenire, che è tutta la prima pagina, è tutta dedicata alla Pasqua, la sfida di Pasqua a essere testimoni, un accenno naturalmente alla minaccia jihadista lanciata ai cristiani del Kenya, ma ai cristiani in generale. È stato detto: in Kenya sarà guerra orribile. E poi c'è anche tutto un approfondimento su tutti gli altri cristiani in fuga o perseguitati nel mondo. E poi una fotonotizia, solo l'Avvenire ce l'ha con questa enfasi in prima pagina, perché sembra incredibile, ma sono passati 6 anni dal terremoto che ha devastato L'Aquila. Il centro storico è stato ricostruito per circa il 20-25%, quindi una situazione drammatica. Si stanno moltiplicando in effetti i cantieri, e quindi il titolo dell'Avvenire: L'Aquila prova a volare ancora, ora la speranza riprende corpo. Il Messaggero ha un'intervista di cui dopo la pausa leggeremo alcune parti, una lunghissima intervista, pagina 2 e 3, di Barbara Jerkova al premier Renzi. Il virgolettato con cui il Messaggero titola l'intervista: stop a sacrifici e nuove tasse. L'Italia riparte, le infrastrutture saranno cruciali, nessun aumento dell'IVA, prendiamo nota di questa promessa. Sulle intercettazioni, altro grande tema di questo giorno, il governo ha una soluzione. E per quanto riguarda Expo, altro grande tema, perché mancano ormai meno di un mese e sapete in questo momento non si potrebbe inaugurare Expo perché troppi padiglioni non sono ancora pronti, compreso il padiglione Italia. E su questo tema Renzi dice: per ciò che abbiamo trovato è un miracolo farla. Ci risentiamo subito dopo la pausa per il meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona Pasqua da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, vi segnalavo il Messaggero che ha due pagine di intervista, la 2 e la 3, al Premier Renzi, e vi leggo questa domanda perché riguarda direttamente l'autocritica sul PD e i problemi del PD con le recenti inchieste. Le diverse inchieste, dal Mose a Mafia Capitale all'ultima di Ischia, chiede Barbara Jenkov, hanno messo in luce il coinvolgimento delle cooperative rosse, un tempo il fiore all'occhiello dell'economia del PD. Un sistema da ripensare? E Renzi risponde: le cooperative erano forse il fiore all'occhiello di qualche progenitore del PD, non nostro. Noi abbiamo un sistema molto semplice: avendo abolito il finanziamento pubblico ai partiti, ci finanziamo con le cene e con le feste dell'unità. Non siamo più la cinghia di trasmissione di nessuno. Detto questo, non voglio che si faccia di tutta l'erba un fascio. Ci sono cooperative con valori mutualistici meravigliosi e storie da brividi, e altre cooperative che andrebbero processate per alto tradimento degli ideali della cooperazione. I giudici indaghino, valutino e per loro parlino le sentenze. Non butteremo via il bambino con l'acqua sporca. Se qualcuno ha rubato, vada dentro chi ruba. Gridare che rubano tutti allo stesso modo serve solo ai ladri, perché alla fine non pagano mai. E io voglio che i ladri paghino tutto, fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo centesimo. E ancora Barbara Jenkov: il PD è stato direttamente colpito da molte di queste inchieste. E Renzi risponde: il PD collabora nel modo più forte. Sono stato io a chiedere al sindaco di Venezia di lasciare, non perché indagato, ma perché aveva patteggiato. Dunque aveva confermato di essere colpevole. Abbiamo commissariato il PD romano immediatamente. Il lavoro che stanno svolgendo Orfini e i suoi è encomiabile, a partire dalla pulizia senza quartiere che stiamo facendo a Ostia con Stefano Esposito. Abbiamo votato per l'arresto di qualche nostro deputato quando la magistratura lo ha chiesto. Non guardiamo in faccia a nessuno, ma chiediamo soltanto ad alta voce che si distingua tra chi ruba e chi non ruba. Se in Italia esiste la corruzione, è bene che escano fuori i nomi dei colpevoli, ma chi è colpevole lo decide una sentenza e non il titolista di un quotidiano. E poi altri, come vi dicevo, tantissimi altri i temi toccati, compreso quello dell'Expo. Ma la prima pagina del giornale è invece dedicata alle foto del massacro avvenuto in Kenya. Il titolo: la Via Crucis Cristiana, ecco le foto del massacro. E il commento è di Magdi Cristiano Allam, che sapete era un giornalista, stato anche vice direttore del Sole 24, del Corriere della Sera, era musulmano, si è convertito al cristianesimo e adesso collabora appunto con il giornale. L'editoriale è di Alessandro Sallussi, un grande atto di sfiducia verso la politica di questi giorni. Il titolo è: piccoli uomini non crescono. Sostanzialmente Sallussi si mette nei panni dell'elettore e dice che chiunque volesse andare a votare, anche appunto per spirito di, perché votare è un dovere civico, avrebbe oggi delle difficoltà, e analizza le crisi di tutti, centrodestra e centrosinistra, in modo devo dire molto lucido e senza fare sconti a nessuno. Il Libero ha un po' il titolo principale è dedicato anche in questo caso alla crisi non tanto di tutti i partiti ma del centrodestra in particolare. Il titolo: buio Fitto, con la F naturalmente maiuscola perché il riferimento è a Raffaele Fitto, l'esponente di Forza Italia, l'esponente pugliese di Forza Italia. Buio Fitto in Forza Italia. Il capataz pugliese insulta Berlusconi il partito e dice, una delle dichiarazioni di Fitto di ieri è stata, aperte virgolette, è chiuso nel bunker, non può far fare le liste a certa gente. Scoppia il caos con una serie di aspiranti fini che vanno all'attacco, ma Silvio ordina: non reagite. Qui in questo caso l'editoriale di Maurizio Belpietro, direttore di Libero, vi leggo soltanto questa frase che è significativa: insomma, un partito di tutti contro tutti, con gente se ne va e altra che minaccia di farlo. E poi trovate tutti gli approfondimenti da pagina 2 a pagina 5. Il Fatto Quotidiano ha invece un titolo, una prima pagina tutta dedicata all'Expo: i costi e i tempi raddoppiano e l'appalto vince il premio velocità. Spiegazione di questo titolo un po' contraddittorio: il cantiere per ripulire l'intera area doveva essere chiuso nel novembre 2013 e costare 58,5 milioni, se ne spenderanno 127,5. La consegna non c'è, però questa azienda che appunto aveva in appalto questo cantiere per ripulire l'area, che si chiama CMC, ha già preso il bonus per la rapidità. Il contatore, che vi segnalo sempre la domenica sul Fatto, dove il Fatto appunto tiene conto dei giorni che passano inutilmente in attesa di misure considerate molto importanti, per esempio 114 giorni da quando il Fatto ha chiesto a Renzi di restituire i soldi della cooperativa di Buzzi, 45 giorni di permanenza di Verro nel CDA Rai dopo che il Fatto aveva svelato la sua lettera a Berlusconi. Ricorderete quella lettera appunto del consigliere Rai in cui questo fatto gravissimo, questo consigliere scriveva consigliando in modo abbastanza deciso di eliminare tutte le trasmissioni in cui si parlava male di Berlusconi. Il manifesto ha un titolo Vie Crucis, naturalmente il riferimento è al grande rito cristiano del Venerdì Santo, però la fotonotizia in realtà è quella di profughi in Medio Oriente, perché ieri è uscito un rapporto che spiega il rapporto di questa organizzazione che si chiama Fisici contro il Nucleare, che è un'organizzazione di Nobel per la pace che dal 1985 monitora un po' la situazione delle guerre nel mondo, e i dati sono impressionanti: 1.300.000 morti, soprattutto civili, è il terribile bilancio della guerra al terrore inaugurata da George Bush dopo l'11 settembre, naturalmente, in Iraq, Afghanistan e Pakistan. E questo è per ricordare che certo ci sono queste terribili stragi di cristiani, ma sono anche ormai più di 10 anni che trasciniamo queste guerre che chiamiamo guerre al terrore, ma che poi coinvolgono soprattutto le popolazioni civili. Terminiamo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Sapete, oggi non si giocano le partite, il giorno di Pasqua, ieri partite vecchio stile, tutto il giorno, senza anticipi, senza posticipi, quindi una grande giornata di calcio. La Gazzetta titola Scatto Milan, strazio Inter. Sapete che il Milan ha vinto e invece appunto l'Inter ha pareggiato con il Parma, ed è stata, secondo la Gazzetta, secondo la maggior parte dei commenti, una brutta partita, e anche Mancini sta perdendo la pazienza. Vediamo le pagine interne dei giornali. Il Corriere della Sera, come ogni domenica, ha una pagina di sondaggio curata da Nando Pagnoncelli. Il PD sarebbe al 35,7, quindi sotto quel famoso record del 41% delle europee, e il Movimento 5 Stelle torna a crescere. La Lega resta davanti a Forza Italia, questi dati dell'ultimo sondaggio di Pagnoncelli. Per quanto riguarda i conti pubblici e la spending review, un approfondimento di Enrico Marro con un'intervista a Yoram Gutke, che è un economista israeliano naturalizzato italiano ed è uno dei consiglieri economici di Renzi, che spiega come ci sia ancora molto spazio per trovare dei risparmi, sempre in vista di quell'idea di scongiurare l'aumento dell'IVA o l'introduzione di nuove accise. E Gutkel annuncia più controlli sulle invalidità, e per quanto riguarda i comuni cercheremo di mettere tutte le loro spese online per avviarci verso quella trasparenza che in molti auspicano e che in altri paesi esiste. Pensate che ci sono paesi dove ogni 6 mesi arriva un resoconto, so per certo della Gran Bretagna, un resoconto di come vengono usati i soldi delle tasse locali e non. Dalla Repubblica, visto che molte persone hanno ancora un po' strascichi di influenza, un approfondimento sull'omeopatia di Michele Bocci. Paradossi dell'omeopatia: continua a essere bocciata dalla maggior parte delle scienze, degli scienziati, però i farmaci omeopatici sono sempre in crescita nelle farmacie. Ci sono tutti i dati, naturalmente per l'omeopatia poi ha tantissime branche diverse. Qui si esamina, oltre all'omeopatia, anche altre terapie naturali come la fitoterapia e l'agopuntura. Vi segnalo anche, perché abbiamo parlato tantissimo di Grecia nelle settimane scorse, poi adesso è un po' di giorni che non se ne parla più, ma il negoziato non è risolto. Allora, Andrea Greco, alle pagine 24 25 della Repubblica: Grecia, scade la rata con il Fondo Monetario Internazionale, Varoufakis, il ministro delle finanze di Tsipras, vola a Washington e ora è Putin a frenare sugli aiuti alla Grecia. Quindi continua, insomma, questo negoziato importante per scongiurare naturalmente la cosiddetta Grexit, cioè l'uscita della Grecia dall'euro. Dalla pagina interna del Sole 24 Ore vi segnalo un interessantissimo approfondimento di Vito Lops, perché sapete che c'è stato questo forte svalutazione dell'euro e apprezzamento del dollaro. Per le aziende europee è una buona notizia, per le aziende europee che esportano, ma come tutti gli avvenimenti economici ci sono tantissimi risvolti. E allora Vito Lops ci spiega: il re dollaro, incubo degli emergenti. Per l'Europa è ossigeno, ma Asia e Sud America temono una bolla da 9 miliardi. E c'è uno schema che mostra quanto ha guadagnato il biglietto verde sulle altre valute, dal real del Brasile al rand del Sudafrica, e come appunto questo si rifletta non tanto sulle aziende europee, che appunto se esportano hanno grandi vantaggi dalla svalutazione della moneta unica, ma invece sulle aziende e sulle economie di altri paesi, in particolare quelli emergenti. La copertina di Imprese e Territori dedicata alla telefonia mobile, quanta concorrenza c'è nella telefonia mobile lo sappiamo tutti, oltre a osservare le infinite pubblicità, siamo un po' tutti tartassati da chi ci strattona per cambiare operatore. Ecco, il Andrea Biondi approfondisce questo tema e ci spiega come nella telefonia mobile siano stati persi 1,6 miliardi per la guerra dei prezzi e sta rallentando la caduta dei ricavi da servizi. Da norme e tributi, un approfondimento sul 730 precompilato, una delle grandi novità fiscali di quest'anno. Dal 15 aprile verranno infatti messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i modelli 730 predisposti dal fisco e Francesca Milano e Giovanni Parente ci spiegano come questa dichiarazione precompilata adesso dovrà essere messa, testata appunto al test convenienza. La copertina di Finanze e Mercati dedicata un po' tutta al settore della moda e dell'abbigliamento, il primo articolo di Laura Gavazzi su Benetton. Sapete che Benetton di recente, abbiamo letto settimana scorsa, ha venduto tutte le attività di duty free in cui era coinvolta, adesso quindi c'è probabilmente una maggiore volontà di concentrarsi sul business dell'abbigliamento e Laura Galvani ci spiega che in questo riassetto potrebbe arrivare anche un socio asiatico. Per quanto riguarda Stefanelli invece, il rivale storico veneto di Benetton, Cati Mandurino ha intervistato l'amministratore delegato Achille Mucci, che ha spiegato come è stato completato una prima fase di turnaround, l'EBITDA è tornato positivo e il 2015 potrebbe essere un anno molto favorevole anche per quest'altro colosso dell'abbigliamento veneto. Infine un approfondimento di Simone Filippetti che ci racconta ancora una volta la storia di successo di Valentino, che è stata venduta dal fondo Permira e poi comprata da un fondo sovrano del Qatar, rilanciata, è un'azienda di enorme successo e forse la chiave del successo è stata proprio di far lasciare lavorare i manager italiani, tenere tutta la produzione in Italia e però mettere fondi freschi. Comprata nell'estate 2012 a 25 volte il MOL, sembrava un azzardo, oggi vale ancora di più. E quindi il titolo dell'articolo: Valentino e la scommessa vinta dal Qatar. Ci lasciamo un attimo per le informazioni sul traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona Pasqua da Giulia Crivelli, eccoci per l'ultima parte della rassegna. Dalle pagine interne dei giornali vi segnalo ancora un approfondimento sulla Grecia dal Messaggero, aiuti alla Grecia no di Mosca, perché come leggevamo sulla Repubblica si avvicina una scadenza per il rimborso di un prestito al Fondo Monetario Internazionale e a questo punto oltre a Berlino, che continua a fare la voce grossa perché la Grecia mantenga i patti e restituisca i debiti, adesso anche Putin si impunta. Il premier Punti si sfila, Berlino duro e Berlino continua a essere molto duro con Tsipras. Vedremo insomma come andrà a finire, perché continuano i negoziati appunto tra la Grecia e le istituzioni internazionali, non solo Bruxelles ma anche il Fondo Monetario Internazionale. Dall'Avvenire vi segnalo un approfondimento su Obama, nel senso che l'accordo raggiunto con l'Iran viene definito uno dei successi della presidenza di Obama, ma scrive l'Avvenire: Obama va a caccia del bis, dopo l'Iran tocca a Cuba. È stato fissato infatti uno storico incontro con Raul Castro, l'attuale leader cubano, e forse, spiega l'Avvenire, è proprio questa la grande eredità della presidenza di Obama, cioè la normalizzazione, lo speriamo tutti, dei rapporti con l'Iran e persino con Cuba. Abbiamo visto sul Sole 24 Ore gli effetti del super dollaro sui paesi emergenti. Il giornale invece approfondisce gli effetti del mini petrolio, perché sapete che oltre a essersi svalutato moltissimo l'euro sul dollaro, è anche sceso moltissimo il prezzo del petrolio, che ancora una volta per i paesi che lo importano, come la maggior parte dei paesi europei, è una benedizione, un po' meno per chi lo esporta come gli Stati Uniti. E quindi il titolo: il mini petrolio fa grippare gli USA, la caduta del barile manda in crisi l'industria dello shale oil e l'America torna a licenziare. Questo appunto sempre per far capire come non c'è mai un effetto solo di una misura economica. Ma siccome non abbiamo tantissimo tempo, vorrei passare le pagine degli inserti culturali oggi e anche domani, c'è tempo per leggerli visto che domani i giornali non saranno in edicola. Cominciamo naturalmente dalla domenica del Sole 24 Ore, vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi che oggi si intitola Certezza. Quando nella perplessità perplessità il mio cuore si confonde e si impaurisce, e quando i più intelligenti non vedono più lontano di questa sera e non sanno ciò che domani bisognerà fare, dall'alto tu mi invii la certezza chiara che tu esisti e che tu vegli affinché le vie del bene non siano chiuse. È una citazione di Alexander Solzhenitsyn, scrive Gianfranco Ravasi, figura affascinante per la sua testimonianza letteraria esistenziale, sconcertante per certe sue prese di posizione su un paslavismo integralistico. Alexander Solzhenitsyn, morto nel 2008, è stato comunque una benefica spina nel fianco per la società materialistica e superficiale dell'Occidente. Lo è stato anche attraverso la sua spiritualità. Ho scelto questa sua preghiera nel giorno del dubbio e dell'oscurità. Egli usa una parola che è in crisi nel nostro tempo, certezza. La forza della religione, in ultima analisi, è proprio lì, nel saper offrire non vaghe ipotesi o fluide opinioni, ma una verità che ci precede e ci eccede, un picco rupestre stabile sulle onde del mare della storia e sulle nebbie del pensiero. E poi dalla prima pagina anche la rubrica del nostro direttore, la rubrica memorandum nostro di Radio 24 del Sole 24 Ore, intitolata Storia amara di Elvira e di donne del Sud partite da zero. Tutto parte appunto da una lettera di Elvira Russo, una signora di Castellammare di Stabia, che ha scritto al direttore per raccontare la sua storia, il suo impegno all'interno di un'istituzione pubblica, ma anche le sue molte delusioni nel cercare di far bene il suo lavoro e di dare un servizio, e quindi anche la sua disillusione. E conclude Roberto Napoletano: guai se facciamo perdere la fiducia in questo paese a persone come Elvira, perché vorrebbe dire che nemmeno euro e petrolio deboli, le iniezioni di liquidità della BCE e altro ancora potrebbero salvarci. La Germania è ripartita perché ha affrontato e risolto in tempi non sospetti la sfida dell'integrazione con le regioni dell'Est, e lo ha fatto con i contributi di solidarietà delle famiglie delle regioni ricche, senza bussare al bilancio statale e al meccanismo pubblico tutto italiano. La questione meridionale, dimenticata, è l'altra faccia della nuova questione settentrionale, costretta a fare i conti con un'emergenza diventata nazionale. Ignorare la realtà non aiuta a risolvere i problemi. E invece proprio, diciamo, il pezzo di copertina è in realtà un articolo di Massimo Bucciantini, che prende spunto da un libro in uscita di Alexander von Humboldt, Viaggio alle regioni equinoziali del nuovo continente, in cui scopriamo che questo naturalista nel 1799 salpò per i tropici, e 30 anni prima di Darwin trasformò questo suo viaggio di esplorazione in una vera impresa scientifica. Moltissimi anche gli altri, naturalamente, approfondimenti sulla Domenica del Sole 24 Ore, recensioni, e visto che siamo a Pasqua vi segnalo un altro articolo di Gianfranco Ravasi che si intitola Una risata vi beatificherà, ed è una rassegna di alcuni saggi che hanno indagato un aspetto poco noto ma non meno vitale delle scritture, il sorriso di Dio. E poi molto divertente una selezione di notizie tratte dal nuovo libro di Lauretta Colonnetti, La tavola di Dio, Ultima cena con erbe e salse, che ci spiega appunto che cosa si mangia negli appuntamenti alla tavola di Dio, cioè anche negli appuntamenti importanti della liturgia cattolica. E la lettura del Corriere della Sera alla copertina è stata affidata a Concetto Pozzati, e poi un'interessantissime due pagine, le prime due, pagina 2 e pagina 3, di Emanuele Severino, L'Africa gialla ci salverà. Perché l'Africa gialla? Perché negli ultimi anni gli investimenti della Cina in Africa si sono moltiplicati in modo esponenziale, e allora ci spiega Severino, siamo spaventati all'idea di un'invasione ancora più massiccia dalle coste meridionali del Mediterraneo, ma gli investimenti della Cina in quell'area e nei territori subsahariani produrranno stabilità, perché la stabilità anche in Europa è quello che serve all'organizzazione tecnoscientifica di Pechino. E poi un'intervista di Luca Mastrantonio a Noam Chomsky, che riesce sempre a essere interessante, anche forse a volte un po' troppo polemico. Il linguista americano racconta i suoi ricordi d'infanzia, dalla zuppa yiddish ai panini al formaggio, e per quanto riguarda l'amore dice una cosa che, insomma, in molti dicono e pensano, non si può definire a parole. L'orrore sì, ma l'Occidente denuncia solo quello degli altri. Ecco appunto, come vi dicevo, sempre un po' anche lo spunto polemico di Chomsky. Per quanto riguarda i musei, un approfondimento sulla Triennale di Milano, che si prepara a sua volta all'Expo, viene definito il museo mutante perché ha un nuovo anche assetto interno, in modo da poter cambiare più velocemente le esposizioni. La Domenica della Repubblica, la copertina è dedicata a Papa Xi. Chi è Papa Xi? È naturalmente il leader cinese che viene un po' adulato come un nuovo imperatore, venerato come una divinità e adulato come un imperatore, il presidente della Cina Xi Jinping, e Giampaolo Visetti, che è in Cina per Repubblica, ci spiega come questo sia anche un po' il miracolo della propaganda, che continua a essere una grande abilità dei cinesi, della Cina comunista, diciamo, quella di ieri e quella di oggi. Dalle pagine, sapete, la bella serie Straparlando di interviste di Antonio Gnoli della Domenica, questa settimana è dedicata a Carlo Carena, che è classe 1925, un grande intellettuale, traduttore, classicista, direttore editoriale, ha insegnato, ha collaborato a lungo con l'Einaudi, e ci, come spesso accade in queste interviste, ci racconta il suo viaggio esistenziale tra libri, autori, case editrici, soprattutto, insomma, carta, parola scritta, riflessioni. Alleggeriamo un pochino il supplemento del Messaggero. Macro ha una copertina dedicata ai benefici della pennichella. Forse oggi molti la faremo dopo i pranzi pasquali. Quanti benefici della pennichella? Gli scienziati decantano i vantaggi che derivano dal sonno pomeridiano, tra cui l'aumento della memoria e della creatività. E se in Giappone il pisolino è addirittura diventato un benefit aziendale, ci spiega Antonio Galdo, in Olanda spopolano gli sleep bar, dove ci si può concedere una pausa post prandiale. E intanto negli Stati Uniti gli hotel potenziano il lusso che riguarda il dormire, cioè tutte le comodità appunto associate al dormire meglio, dai materassi super tecnologici alla insonorizzazione delle camere, e chi più ne ha chi più ne metta. Alias, il supplemento del Manifesto della Domenica è invece la copertina dedicata a un nuovo libro di Doctorow, La coscienza di Andrew, una nuova traduzione, e quello che il Manifesto definisce un viaggio tragicomico nelle peregrinazioni fisiche mondiali nell'ultimo personaggio messo in scena da Doctorow. Era l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi. Ringrazio Peter Bescapè in regia, auguro ancora a tutti una serena Pasqua. Domani, come vi dicevo, i giornali non sono in edicola, ma naturalmente Radio 24 e il sito del Sole 24 Ore e di Radio 24 vi terrà aggiornati. Ancora buona Pasqua da Giulia Crivelli.